Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Se c'è qualcuno in politica che è credibile per un'operazione di questo, questo qualcuno è soltanto Silvio Berlusconi, perché io voglio capire amichevolmente da Monti, dal centro, contro chi combattono. Io credo che gli italiani abbiano abbastanza memoria. Il popolo italiano è contro questa roba qua. Noi non vogliamo essere soci di nessuno che bombarda. Ho detto non c'è stato un errore, nemmeno un malfunzionamento dei nostri apparati di riproduzione. Abbiamo semplicemente riprodotto la voce dei leader politici con un filtro, con una velocità diversa, a ciò che appaiono distorte. Voi in questo momento avete avuto una realtà distorta della politica, oppure se l'unico occhio lucido, l'occhio del profeta, l'occhio dell'innocente, l'occhio del folle, guardasse la politica, non li vedrebbe nella loro esatta velocità. La distorsione non sarebbe la realtà. Non è un attacco che vuole essere cervellotico. Oggi vorrei parlare della vostra percezione degli uomini politici. Non ho nessun interesse, come ho già detto poco fa, nel lancio, a quale sia la vostra intenzione di voto. Non è questo lo spazio. Ci sono spazi preposti e colleghi molto più adatti a ragionare su questo. Vorrei avere la vostra percezione della carne dei politici, dell'effetto che vi fanno i politici, del grande apparato degli uomini che si chiamano politici, che entrano in una sorta di circolo sacerdotale. Qualunque esso sia, qualunque sia anche il più dimesso, anche il più innocente, anche quello che sembra più estraneo alla politica che oggi si propone per essere votato, comunque sa che avrà una forte forma di santificazione, di entrata in un circolo sacro. Beh, voi li avete sentiti così distorti. Immaginate per un attimo che questa sia in realtà la loro vera essenza, queste siano le loro voci, questa sia la loro appartenenza. Beh, ditemi qual è il vostro punto di vista. Filippo Ceccarelli, buongiorno. Buongiorno. Io questa follia la inizio insieme a un caro amico e collega, Filippo Ceccarelli, giornalista di Repubblica, che ha appena pubblicato un libro, Come un gufo tra le rovine, serie bianca Feltrinelli. Il gufo tra le rovine occhieggia, come fosse uno stilita, il mondo intorno che si immagina composto di rovine. Il gufo tra le rovine, la citazione che a me interessava e divertiva, non è il gufo in quanto la persona che gufa, non vi mettete le mani sugli innominabili attributi, il gufo non è colui che porta male, il gufo è un animale molto saggio, il gufo ha una vista attenta e profonda, il gufo legge, interpreta e decodifica quella distorsione che avete sentito all'inizio. Il gufo può essere, nella mia banale pacchiana citazione, il gufo Anacleto dell'assistente appunto di Mago Merlino nel famoso cartone animato della Disney della Spada Roccia, ma il gufo è anche una profonda citazione, Filippo Ceccarelli, vero? Eh beh sì, è il gufo terribile del Salmo 101, nel senso che è uno dei salmi più tristi, e si dice io sono come il pellicano nel deserto, io sono un gufo tra le rovine, ed è una specie di profezia cataclismatica, nel senso che le rovine sono già avvenute, e senza diciamo prendere aspetti troppo apocalittici, in questo appunto scaramanzie e cose innominabili eccetera, però ecco, qui la situazione si è un po' accelerata verso un esito non proprio benigno delle cose pubbliche, della vicenda pubblica. Cioè, secondo te il punto di vista è che siamo circondati da rovine? E diciamo, se non ci sono già, si cominciano a intravedere all'orizzonte. Non so se lo sai questa citazione, questo era il cavallo di battaglia dell'estrema destra post-fascista, nei primi anni 50, Gli uomini e le rovine, il famoso libro di Evola, il punto della rivolta di coloro che consideravano la guerra perduta, il tradimento, la democrazia come il più grande oltraggio alla visione sacra della vita, che proprio fossimo circondati da rovine. E i risvegliati erano quelli fra le rovine e dovevano guardare e combattere con la spada in mano, cavalcare le tigre e via dicendo. Oggi il gufo è tutt'altro che un guerriero, è tutt'altro che una sorta di illuminato, è tutt'altro che una sorta di iniziato. Il gufo, che è l'animale che guarda, osserva, pensa, è un tempo infinito davanti a sé per dire dopo le rovine verrà qualcos'altro. Io spero di sì. La sensazione è che serva una qualche forma di catarsi, ecco. E da questo punto di vista la crisi economica e la crisi anche un po' culturale che ha abbassato il livello del discorso pubblico in Italia, mai come in questa campagna elettorale, senza entrare così nel merito, però mai come in questa campagna elettorale si sente una serie di, si avverte un dato proprio di povertà del discorso però pubblico. Però è divertente questa campagna, perché è unica, divertente. Tu ne hai viste tante, tu diciamo... La tua fama è essere il grande archivista della politica. Quando ancora non esisteva internet, Filippo Ceccarelli era l'unico fra tanti colleghi che aveva una serie di quaderni dove ritagliava, annotava, teneva in memoria. Il Google analogico pre-digitale era Filippo Ceccarelli. Quando uno voleva sapere qualcosa, lui ritrovava nei suoi quaderni quella dichiarazione, quella situazione, quel fatto. È un po' quello che ha fatto in questo libro, anche se oggi con uno strumento di motore di ricerca chiunque può assemblare, ma lui l'assembla attraverso alcune categorie. Il motore di ricerca, per quanto sia raffinato e per quanto lavori su piani sublimi, ti mette per dei campi di ricerca delle frasi in fila. Invece Filippo, cosa hai fatto in questa ricerca? Tu l'hai divisa per grandi settori, per grandi aree, per grandi case dello spirito, diciamo, se posso chiamarle, delle categorie di persone che in realtà ben poco hanno della dignità degli spazi in cui le collochi. Sono vicende e citazioni, frammenti, che hanno la caratteristica di fare ridere ma anche spaventare. Le due cose non sono in alternativa, sono perfettamente compatibili in una logica molto nostra, molto italiana, che è quello del tragicomico. Alcune cose sono veramente esilaranti al punto tale che io ho ritenuto di dover segnalare le fonti, la data, il giornale da cui l'avevo prese, perché sembrano non vere, sembrano inventate, perché poi come tutte le cose brutte si cerca di dimenticarle, quindi oggi l'oblio però non esiste con la rete, soprattutto se uno va a ricercarsele, diciamo. Però in realtà naturalmente uno poi se le scorda, cerca di scordarsele, sono brutte. E qui invece fanno ridere, dice no, non è possibile, questa cosa invece è possibile, allora, ma tutte insieme fanno spavere. Che esperienza, diciamo, dalla prima Repubblica a oggi, come la politica si comunicava era fondamentale, politica era ciò che di lei comunicava, oggi molto più di adesso, negli ultimi anni in maniera molto, molto più densa e vivace e articolata e strumentalmente applicata ad alcune tecniche. Nella prima Repubblica la comunicazione era basilare, era essenziale, era più o meno simile per tutti, erano tutti gli stessi strumenti. Arriviamo oggi in cui è più importante il tweet che manda l'uomo politico indirettamente o perché glielo costruiscono intorno gli uomini del suo staff o per qualcuno lo coglie, piuttosto che quelli sono i canali ufficiali della comunicazione. Accade più su Twitter che negli spazi preposti che la par condicio assegna alle varie testate in cui si parla di politica. Le vere notizie, che la notizia è la dichiarazione, la battuta a cui si risponde, che crea quella sorta di salamella interessante per cui si fanno i titoli dei giornali, avviene ormai per canali indiretti. Beh, sì, con il risultato che poi, essendo il mezzo, il messaggio, il tweet politico... assomiglia abbastanza o rischia di assomigliare abbastanza a una specie di analfabetismo secondario di ritorno, nel senso che si punta sull'immediatezza, sulla efficacia immediata, ma si perde quella cosa che è l'articolazione del discorso, il che francamente rende una specie di segnale molto primitivo, molto... Sì, però assomiglia molto a quelle frasi essenziali, fantomatiche, lapidarie, profetiche, che vengono pronunciati dai guru, dai santoni, dai maestri di vita, che magari non vogliono dire nulla, ma danno un grande effetto. La dichiarazione politica, nei tempi del rigore politico in cui tutti pensavamo esistesse una macchina coerente, uguale per tutti, era qualcosa che passava attraverso vari filtri, passava per la gente, passava prima per gli uffici politici, poi per gli addetti stampa, poi le agenzie, poi i giornali le pensavano, le meditavano e poi usciva finalmente allo scoperto e arrivava attraverso vari canali. Oggi il tweet, senza nessuna di queste garanzie, il politico, nel momento in cui gli gira, nel momento in cui è umorale, nel momento in cui pensa che è stato colpito, risponde, lo manda immediatamente, entra immediatamente nel circolo. Questo fa parte di questi aspetti, di questa sorta di grande apparato sacrale che in realtà ha perso il contatto con quello che è il suo principio assoluto, come quelle religioni nel momento in cui stanno per decadere. Sì, già hanno i sacerdoti, gli apparati, le chiese, anche i fedeli, ma hanno perso il contatto con il loro Dio. Beh, in realtà appunto la sacralità della politica per tanti anni ha avuto come effettivo contrafforte, come munizione autentica, il principio della rappresentanza, cioè i leader politici di una volta avevano dietro milioni di persone. Moro e Berlinguer, quando dicevano una cosa o anche soltanto si atteggiavano in un modo, anche a livello proprio del linguaggio corporeo, con le smorfie, eccetera, si ponevano sistematicamente il problema di rappresentare il loro mondo, il loro popolo. Questa rappresentanza negli ultimi anni, per ragioni complicate, però abbastanza velocemente, è venuta a meno ed è stata sostituita, almeno in questi ultimi anni, da una rappresentazione col risultato che tutti sembrano che recitano e fanno delle cose abbastanza da pazzi. Una delle cose che fanno meglio e che fanno più spesso è fare i buffoni. Cioè cercare di far ridere per scaldare l'atmosfera, essere spiritosi, fare gli spiritosi. Allora fermo un attimo, Daniele, ascoltatore Daniele. Buongiorno. Siamo arrivati, mi sembra, più o meno in quello che lei voleva dirci. Lo leggo dalla stringata riga che riassume il suo intervento. Sì, infatti, cioè, non so, io ho la percezione di questa classe politica, appunto, di come degli scolaretti che, messi davanti alle loro responsabilità, cercano ora di essere al passo con i tempi, di cercare nuovi metodi di comunicazione, però tutto ciò sembra appunto artificiale. Lei è d'accordo sul fatto che oggi, diciamo, la cifra generale della comunicazione politica è scesa di livello rispetto alla rappresentazione austera, aulica, se vuoi tragica in certi momenti? Siamo entrati nel campo della farsa. Oggi anche il più serio, il più compassato, il più attendibile dei politici, per coloro a cui lui fanno riferimento, deve scendere, comunque deve fare la battuta, deve dimostrare che è spiritoso, dimostrare che è brillante. Sì, showman, tutte appunto devono fare spettacolo, devono dare spettacolo, da Monti a tutti ormai i vari politici. No, li citi tutti, così rispettiamo la par condicio. No, tutti lo stanno facendo, certo, chi è che non lo fa? Sì, sì. Non è un... poi giustamente Berlusconi è un uomo di spettacolo, quindi già potrebbe essere più comprensibile, però già... Anche Grillo è un uomo di spettacolo. Anche Grillo, ma per carità, però tutti questi politici, anche Monti che twitta, a me non mi... Io ad esempio non uso Twitter, tutti questi strumenti qui, e mi piacerebbe di più appunto che ci fossero più contenuti, anziché appunto sti messaggi, queste... è una forzatura, non lo so. Secondo me sono molto meno credibili così che in altra maniera. Questo però è il suo punto di vista, Daniele. Quanti delle persone che ascoltano in realtà si sentono favorevolmente colpiti da questa apertura, da questa scesa nel campo della condivisione, del 2.0, della facilità e la facoltà di essere un grande fenomeno social? Il politico è social oggi, è un termine che non avresti mai immaginato soltanto 10 anni fa, Filippo. L'idea che il politico scende in un social network, il politico è pari passo con l'ultimo dei troll che scrive parolacce o insulti su Twitter, gli rispondo, per lui risponderanno probabilmente i suoi delegati, entra in questo circuito. Fa bene o fa male alla politica questo? Attenzione, entra in questo circuito e occlude l'immagine, ecco, perché poi c'è anche questo, ossia fa quella sua frase breve, essenziale, immediata, non profonda, e può occludere un video o una fotografia, e qui siamo sul terreno proprio degli indizi, perché siamo nel superamento della parola scritta, della parola anche orale in questo senso. Anche beh, la multimedialità alla fine, se entrano in questo mondo che è fatto di multimedia, in cui ogni casalinga, ogni ragioniere, ogni ragazzo mette la sua foto in ogni atto nella sua esistenza, se vuole entrare in questi codici il politico deve mettere se stesso anche in momenti irrazionali. Al di là di queste cose che poi fuggono, tu ogni tanto colpisci invece in questo libro, probabilmente dei frammenti che passano attraverso le fessure della grande informazione, magari non vorrebbero che passasse. Viene in mente, devo dirlo, la Mussolini che incontra Fini e gli dice complimenti per il bambolotto, perché l'ha visto con un costume da bagno particolarmente ben fornito. Eh sì, perché i corpi sono poi diciamo una riduzione di complessità. I corpi sono questi, ce l'hanno tutti. È il carcassone di ossa, muscoli, peli, eccetera, è il minimo comun denominatore della politica, al di là di destra e sinistra. Solo il corpo del santo, del mistico e del risuscitato. È il corpo che cambia, il corpo che si trasfigura, per cui invecchiano oppure si rifanno, ingrassano. E questo in qualche maniera rientra pienamente nel messaggio politico. Però io noto che in questa ultima campagna elettorale, ed è interessante, confluiscono anche gli animali. Ossia, io senza la foto del cagnolino ieri, è il secondo cagnolino che interviene nella campagna elettorale. All'inizio della campagna elettorale, diciamo, a un politico di primissimo piano, sempre per evitare, fu diciamo, portato sulla scrivania un cucciolo di Carlino. E con foto su Twitter, naturalmente, e c'era questo graziosissima bestiolina nelle mani di questo politico con dietro la padrona del cane. E passano 15-20 giorni e questa volta è una cagnolina, una meticcia, trovatella naturalmente, quindi senza genitori, con un fratellino investito perché abbandonato, come i protagonisti dei cartoni animati che sono sempre orfani, che viene mostrato ed è un batuffolo di pelo carinissimo, graziosissimo, nel corso di una manifestazione politica nel quale viene annunciato un provvedimento molto importante che riguarda il fisco in Italia. Però io te lo dico da lettore della rete, è perfettamente in linea. Una delle caratteristiche principali nei social network, soprattutto Facebook, che è più dotato di iconografia ancora rispetto a Twitter, è il messaggio dei cuccioli abbandonati. C'è sempre una sorta di catena di Sant'Antonio in cui ti arrivano o 5 cani pulciosi o 4 gattini sprovveduti o 7 abbandonati nella spazzatura macilenti, o poi peggio ancora cani rognosi e cani piagati e cani che sembrano Lazzaro presi fuori dal sepolcro, e c'è sempre una catena. Questo povero cuccio sembra un padroncino, cerca amore, cerca affetto. Non succede nulla perché nessuno sa dove è il cuccio, probabilmente sono foto che vengono dagli anni 50 o chissà da dove, capito? Però immediatamente scatta la catena della solidarietà. Il cucciolo è un elemento emotivo che nella rete funziona molto. Andrea Amato, buongiorno. Buongiorno. Allora, Andrea Amato, cominciamo, fra le persone comincerà a darci poi conto di quanto poi concretamente questo grande apparato di rappresentazione, quanto la comunicazione politica oggi abbia, secondo alcuni criteri numerici accettati, oggettivi, non dico sia così in assoluto, abbia comunque una possibilità di essere misurata e valutata. Andrea Amato, ricordo, è direttore responsabile del portale www.tvzoom.it, che si occupa proprio di analizzare, ponderare tutti gli aspetti a televisione, in particolare in questo ultimo momento lo fa della politica. Rispetto a quello che abbiamo detto con Filippo Ceccarelli, questa formula di puntare tutto sull'aspetto ludico, divertente, Ceccarelli all'inizio del suo libro parla del pagliaccio, del clown, di queste figure, molte volte si vedono, sono artisti di strada che riempiono le strade con la loro figura, ecco, sta dando dei frutti, sta dando dei risultati, vale per tutti? Beh, in questa campagna elettorale così affollata, da quando abbiamo il maggioritario in Italia non c'erano mai stati 5 candidati forti come in questa campagna: Berlusconi, Bersani, Grillo, Monti e Ingroia. E l'aspetto ludico, se vogliamo, dal punto di vista televisivo, il picco di share di tutta questa affollatissima campagna televisiva è stato quando Berlusconi ha sostanzialmente deriso Travaglio pulendo la sedia. È stata, sì, ne abbiamo parlato, c'eri anche te, mi sembra, abbiamo fatto. Esatto, è stato un momento, è come dire a un avversario: ti puzza il sedere, è la cosa peggiore. Pulire la sedia prima che di sederci è stato seduto l'altro, una cosa da scuola media, però ha funzionato. Stiamo ancora a distanza. Quanto è passato? Un mese da quella volta, più o meno? Sì, era il 10 maggio. Si parla ancora di quello, quindi è stato un gesto epico. Se spostiamo, io ho iniziato questa trasmissione con voci deformate. Se lo spostiamo in un ambiente deformato, non esiste più la realtà, ma esiste la sua rappresentazione, il gesto epico è stata la pulita di sedere, scusate, la pulita di sedia, di seduta, in quanto adonta di una possibile seduta poco pulita dell'avversario c'era prima, da parte di Berlusconi. Esatto, portando il servizio pubblico in quel momento al 50% di share, in quel momento c'era Bersani da Vespa che non raggiungeva il 10%. Questo, insomma, la dice lunga andiamo avanti, seguendo sempre questa traccia della rappresentazione della politica. Quali sono stati i punti clou poi? Un altro punto clou, a inizio, diciamo, campagna, Berlusconi da un anno e mezzo non compariva in TV, era uscito dalle scene, è voluto ritornare prepotentemente dalla D'Urso a raccontare la sua storia anche personale e privata, aveva raggiunto il 15,06% di share a Domenica Live. Una settimana dopo, da Giletti, con il famoso "me ne vado, allora me ne vado", alzandosi in piedi, che era diventato poi un culto proprio su rese, Giletti un eroe improvvisamente. Esattamente, aveva raggiunto il 27,86%. Quindi ancora una volta, quando non si parla di contenuti, di programmi, ma si parla male, lo si butta in farsa e in burletta, comunque sia. Allora, fermati un attimo, Amato, diamo la linea alle informazioni della borsa, perché è interessante. Tu intanto preparati, voglio sapere quali sono stati gli altri punti clou, perché in fondo è la conferma del gufo tra le rovine di Filippo Ceccarelli, che in realtà oggi è interessante osservare la grande rappresentazione, la grande farsa della politica, che in realtà è la maniera per comunicare più efficace che hanno trovato gli uomini politici. Sarà colpa dei tempi, sarà colpa dei media, sarà colpa della sensibilità di chi ascolta, ma per arrivare bisogna fare cose del genere, almeno questo sembra. Melog, la realtà condivisa. .800240024, stiamo parlando della rappresentazione della politica. Stiamo parlando con Filippo Ceccarelli, che è autore di Come un gufo tra le rovine, serie bianca Feltrinelli, che è il suo ultimo libro, in cui fa, come d'altronde la sua tradizione professionale, una raccolta, una spigolatura di dichiarazioni, di intemperanze, di stranezze, che sono uscite alle grandi maglie dell'informazione ufficiale, sono rimaste arenate da qualche parte, lui le raccoglie. Ma il titolo, che viene proprio da una citazione biblica, in realtà dà perfettamente senso a quello che adesso è questo libro. È una sorta di breviario, una sorta di zibaldone, una sorta di libro profetico, è un grimoire da cui si vanno a prendere dei punti di riferimento. Noi siamo partiti dall'analisi del cagnolino, che è apparso Silvio Berlusconi con un cagnolino in braccio, visto che stiamo parlando di tutte, poi toccheremo anche quelle degli altri, di tutte le rappresentazioni più esteriormente, platealmente mirate a creare stupore. Un leader appare col cagnolino in braccio. È interessante, divertente, ma ci sono anche dei precedenti. Spulciando il tuo libro, ci sono già dei precedenti. Accadde anche al Trota, figlio di Bossi, di dover essere associato a un cagnolino in un suo momento importante. Beh, sì, diciamo, io ho lavorato naturalmente sulla schiuma dell'informazione politica, e schiuma che nasconde dei veri e propri tesori. Tra questi, credo che un testo imprescindibile sia il libro di memorie dell'autista dei Bossi, che si chiama "Ero l'autista dei Bossi, ma mi hanno lasciato a terra", in cui racconta la sua vicenda di servizio del figlio di Bossi, allora candidato alle regioni, alla regione Lombardia, e racconta, a proposito di cagnolini, come a un certo punto, per fargli fare la figura dell'animalista, insomma, si prese un cane. Si trovò un cane. Si trovò un cane. E si associò alla trota. E dopodiché però racconta il l'autista che finite le lezioni sto cane non sapeva più che fare, insomma. E allora l'ha regalato, l'ha lasciato in una casa di un amico suo. E la cosa ha un destino tragico, perché poi sto cane viene messo sotto da un'automobile e quindi la cosa finisce lì e viene indicato come un esempio, diciamo, di cinismo. E non poteva più essere richiamato comunque alla memoria collettiva quel cane. E beh, insomma, aveva svolto la sua funzione, che è un po' quello che fanno gli animali. Ma insomma, a meno che non avvenisse come Lessi, quando moriva ne mettevano un altro, o il commissario Rex, che sono un'infinità di pastori tedeschi, a seconda del set, ne prendono uno somigliante. Oh, riguardo a Rex, mi piace di segnalare che al congresso di fondazione del movimento di Scilipoti, era qualità, diciamo, di testimonial presente un attore di Rex. Un cane Rex. No, non un cane, ma un attore della serie, quindi insomma, però non c'era. Presentato come tale, quindi insomma. Michele, buongiorno. Buongiorno. Vi chiamo per lasciare un pensiero, una riflessione su quello che ho ascoltato. Mi piace la vostra trasmissione, ma a parte questo voglio contribuire con questo discorso. Cioè, si parla di politica, io vedo molto l'aspetto estetico oggi, superficiale della politica, e questo è un esempio: non c'è il cittadino davanti, non c'è il cittadino nelle mani di Berlusconi, c'è un cane, non c'è i 19 operai che vengono reintegrati, vengono lasciati a casa, questo perché non è importante rispettare magari una sentenza, giusta o sbagliata, qualunque essa sia. Ma lei lo vede diffusamente anche questo fenomeno di dover per forza entrare nel grande spettacolo. Come si fa a stare fuori dal grande spettacolo in una campagna elettorale? Come ci si fa a comunicare senza entrare nel grande spettacolo, secondo lei? No, sicuramente i mezzi, la comunicazione sfrutta qualsiasi immagine, anche quella del cane, a me va bene tutto. Quello che dico è che si fa confusione fra i veri comici e i politici che sono diventati dei comici, perché un conto è confrontare Grillo, che è un comico, con dei politici che non sono dei comici, ma diventano comici per essere visibili. Ma lei lo dice con amarezza questo, Michele, come se rimpiangesse un tempo perduto in cui ognuno aveva il suo ruolo? Io rimpiango sicuramente Luigi Einaudi, rimpiango figure di riferimento etiche, figure che avevano una presenza nella... Lei quanti anni ha, Michele? Lei quanti anni ha, Michele? Io sono nato nel 71. Quindi di queste persone soltanto un eco lontano ne ha sentito parlare. Io ho letto, però ricordo le battaglie radicali quando parlava Pannella di conoscere per deliberare. Beh, diciamo, come a escamotage, diciamo, per colpire l'attenzione attraverso i media, Pannella è stato il maestro, li ha inventati lui, si può dire. Ancora gira con cartelli al collo. Ma assolutamente, oggi si usa la PNL, la programmazione neurolinguistica, si utilizzano sistemi per utilizzare la comunicazione in modo efficace e produttiva, diciamo. Sì, però vede, alla fine parliamo sempre della sedia pulita col fazzoletto, dell'attacco di bombe sopra Roma, parliamo di tutte le cose che in realtà fanno parte... Non di nessuna scuola raffinata, ma di, che ne so, di quello che abbiamo imparato sui banchi di scuola quando eravamo scavezzacollo. Beh, certo, ma questo è quello che la gente si aspetta vivendo in un ambiente di superficialità. La comunicazione porta davanti agli occhi delle persone quello che vogliono. Filippo Ceccarelli, cosa devi dire, Filippo? No, rispetto a quello che ci ha ascoltato, diciamo, al cagnolino, l'attacco al Parlamento con le bombe. Io ho visto anche, diciamo, una statuetta di Pulcinella esibita da un politico che aveva caratterizzato la sua stagione all'insegna della sobrietà, questo a Napoli l'altro ieri, quindi no, una statuetta di Pulcinella. Una statuetta di Portella, una pizza con il nome del medesimo inscritta con la mozzarella, sempre per dire. Ho visto un giudice molto importante, assurto alle cronache anche tragiche della questione della mafia, che in video ha mostrato, si è infilato le manette ed è stato per un'intera trasmissione radiofonica con delle manette ai polsi. Era lì seduto al tuo posto poco fa. Ecco, e ho visto anche un altro candidato che si è infilato delle manette dirette in televisione o comunque del Giannino si è incatenato, diciamo i nomi perché sennò sembra che vogliamo Giannino si è incatenato, Ingroia si è incatenato, Monti ha fatto vedere Pulcinella e insomma chi manca, così diciamo tutti, e Bersani, poi, non è detto di Bersani, Bersani si è lasciato si è messo gli occhiali dei Blues Brothers l'altro giorno a Firenze e la manifestazione non con l'inno della Nannini, su cui c'è un interessante video in cui lui sembra un po' il leader di una repubblica caucasica, insomma, eccetera, ma si è concluso con la musica dei Blues Brothers e lui si è infilato occhiali Ray-Ban Vintage e ha fatto il salto mortale con John Belushi, no? Insomma, e quindi ecco, siamo dentro un frullatore di immagini che a me non sorprendono. Facciamo un gioco Filippo, tu che hai memoria storica, l'ascoltatore prima, non avendo vissuto i tempi, essendo nato nel 70, cita i grandi padri della Costituzione, ecco, come li vedresti oggi nella macchina del tempo, portate nel nostro tempo, quelli che tu conoscevi, che hai vissuto, non tornando indietro, quelli della nostra prima esperienza, gli Andreotti, i Forlani, gli Spadolini, infilati in questo meccanismo, gli si dice un giorno all'altro, guarda, oggi c'è questa campagna importante, fate questo. Cosa farebbero, secondo te? L'unico che forse aveva una qualche dimestichezza con il mondo degli spettacoli, anche grotteschi, era Andreotti. Io ricordo un Andreotti non molti anni fa che aveva infilato un dito dentro il formaggio, il gorgonzola, per fare il testimonial. E effettivamente Andreotti era a suo agio di fronte alle telecamere. Ma non so, figure come Moro andava in spiaggia con la giacca e la cravatta. Berlinguer rispose a un giornalista americano di non poter dire l'età che aveva e che si rivolgesse all'ufficio stampa dove avrebbe trovato una nota biografica. Quindi erano figure assolutamente poveracci, no, non l'avrebbero fatto, avrebbero smesso di fare. Cioè, presente, ti ricordi Todo Modo? Quando vanno in l'eremo di Zafer. Vanno in questa sorta di eremo dove facevano un ritiro spirituale in cui dovevano. Poi vengono ammazzati tutti da una sorta di prete invasato. Però è bellissimo perché anche lì vedi quanto in realtà fosse importante avere un aspetto esteriore intangibile, l'intangibilità quasi del santo, era questo il politico una ma volta. Loro non erano santi, in realtà erano. No, erano pieni di problemi, certo, si rigiocavano in casa. Avevano soprattutto una cornice molto forte. Le culture politiche non erano un gioco, non erano uno scherzo, erano una grandissima cornice di contenimento. E con la fine della Prima Repubblica, con anche l'evoluzione tecnologica, che non ha segno di destra o di sinistra, questa cornice è semplicemente non c'è più. E quindi ciascuno la mattina decide di conquistare l'attenzione, perché poi i loro veri avversari non sono gli altri leader politici degli altri schieramenti, i loro veri avversari, i loro veri concorrenti sono le merci, sono la partita di calcio, sono lo schermo ultrapiatto, Facebook, il Viagra, cioè sono i consumi autentici che calamitano l'attenzione Quindi devono rivestirsi anche e loro quindi devono delle caratteristiche di un prodotto che attrarre l'attenzione, vampirizzano usando gli stessi metodi e gli stessi sistemi. Melog, la realtà condivisa. .800240024 con Filippo Ceccarelli, autore Come un gufo tra le rovine, Feltrinelli, spigolatura di tutte le incommensurabili atrocità fantastiche uscite dal senno che sono state colte da lui negli ultimi anni, nelle fessure dell'informazione ufficiale tradizionale, per detto, fatto, compiuto da uomini politici che oggi stanno presentando una campagna elettorale in cui noi però vediamo l'aspetto comunicativo, l'aspetto mediatico, che è completamente differente, abbiamo visto. C'è stata proprio una mutazione genetica dell'immagine allucinata del politico, anche dal punto di vista di chi lo segue. Abbiamo iniziato con Andrea Amato, direttore responsabile di tvzoom.it. Amato, avevamo iniziato a toccare i punti clou, vediamo se ne riesce a elencare altri. Sei d'accordo con quello che dice Ceccarelli, che oggi il vero avversario di un politico che va in TV non è il suo avversario politico, ma è la merce, la controprogrammazione? Assolutamente. Per suffragare questa cosa qua, ricordo che a Ballarò che va in onda spesso in contemporanea con le partite infrasettimanali, durante la partita Juventus-Lazio che è finita di Coppa Italia, che è finita entro il 90esimo, Mario Monti, ospite di Floris, ha fatto il picco a un certo punto del 30%. La settimana prima Bersani, che però aveva contro Inter-Bologna, sempre di Coppa Italia, che però è andata ai supplementari, Bersani non ha raggiunto il 19%. Quindi è evidente che davanti al calcio l'italiano preferisce il calcio alla politica, non cambia il canale quando c'è. Beh, molto interessante, questo è un dato completamente nuovo comunque, che l'oggetto di palinsesto è equipollente a... l'oggetto di palinsesto che invece dovrebbe raccontare la politica, e deve fare i conti con questo, per quanto ci siano regole, ci siano controlli, ci siano rappresentazioni, rappresentatività segnate col contagocce, con il misurino, perché tutti siano equi, in realtà conta quello che sta dall'altra parte. Ti do lo spazio, bisogna vedere cosa c'è in controprogrammazione, vale meno, bisognerebbe fare questo conto, secondo me, nella par condicio. Non vale lo spazio che hai, ma vale anche chi c'hai contro. Diventerebbe complicato poi gestire, però è così, tutto, scusa, dammi atto, però è così, è assolutamente così, sì, assolutamente così. Viene svantaggiato chi va contro il calcio, chi va contro Sanremo, chi va contro altri eventi televisivamente molto forti, questo è indubbio. Ritornando un attimo invece diciamo alla campagna bulimica di Berlusconi, se aveva vinto dando con il me ne vado da Giletti e con la spolverata da Santoro, invece da 8,5 dalla Gruber con la sua uscita, le toghe femministe, ovvero i giudici che gli avevano imposto 3 milioni di euro di alimenti al mese all'ex moglie Veronica Lario, in quell'occasione Berlusconi a 8,5 perde sia contro Monti, che aveva raggiunto le 2 milioni e mezzo di share di contatti, sia anche contro Bersani, che era arrivato a 2 milioni e 3. Ultima cosa devo chiedere, fammi un pronostico. Sì. Sanremo in teoria dovrebbe essere la sospensione della campagna televisiva. In realtà, secondo noi, Sanremo è il più alto momento politico che ci sarà, o sbaglio, in televisione? Beh, tutti si aspettano un Alipizzetto abbastanza sugli scudi. Va detto che sarà un'edizione, e questo dicono i commentatori sanremesi, che sarà un'edizione probabilmente un po' al di sotto della media, poi in realtà Fazio è capace di grandi numeri. È evidente che è un bello scontro, ma per questo la politica aveva chiesto lo spostamento del festival un mese fa. Perché allora, passiamo nell'altro settore. Vincenzo Cosenza, buongiorno. Buongiorno. Responsabile blogmeter.it, che è il servizio di ascolto dei social media che misura e valuta mensilmente sia la presenza di aziende, brand, personaggi pubblici, in questo caso anche di politici. Ci sono state, da quando ci siamo sentiti l'ultima volta, circa un mese fa, delle importanti movimenti in rete rispetto a quello che ci eravamo detti, soprattutto in Twitter, che sembra, non so se ho torto o ragione, considerato il punto più alto della possibilità di rappresentarsi. Bah, sicuramente quello che abbiamo notato è che in questo mese di gennaio sono aumentate tantissimo le discussioni in rete. Se mediamente a dicembre rilevavamo 2 milioni di messaggi, a gennaio abbiamo superato i 3 milioni e mezzo. Sono aumentate anche le interazioni sui social network, che sono arrivate anche a 6 milioni. Quindi questo vuol dire che la gente partecipa di più in rete, perché sono aumentati anche gli autori unici che lasciano questi commenti. Ti posso fare una domanda che sembrerà sciocca, Cosenza? Di tutto questo traffico che cresce, chi si prende un vantaggio economico? Il vantaggio economico... Zuckerberg, no, e basta. Probabilmente Zuckerberg, perché è noto che i politici hanno iniziato a fare pubblicità, quindi advertising su Facebook in maniera abbastanza evidente. Proprio ieri ne vedevo alcuni... Poi non c'è un vantaggio per il web in generale, come dice, la televisione va molto bene perché la politica fa bene alla televisione, fa ascolti, quindi avrà più pubblicità, quindi avrà più soldi. Il web italiano, da questa grande euforia e questa grande ubriacatura di web 2.0, in realtà le aziende che hanno investimenti nel web ne hanno un vantaggio concreto, secondo te? No, probabilmente soltanto l'investimento pubblicitario aumenterà a seguito di questa ondata politica determinata dalle elezioni. Sui moti individuali, chi è che è più attivo in questo momento? Ma allora, sicuramente c'è stato un grosso picco a gennaio che avevamo già visto dalla partecipazione di Berlusconi da Santoro. Nell'ultima settimana invece di febbraio, ancora una volta, Berlusconi ha preso la scena con la proposta shock, chiaramente. In generale devo dire che Berlusconi ha un 30% di share. Poi di rimbalzo, cioè accade in un medium, accade in televisione, rimbalza il commento in rete, non è un'azione diretta alla rete. Assolutamente sì, quello che si osserva è proprio questo, cioè soltanto al momento la rete è un luogo di rimbalzo, è uno specchio di quello che accade soprattutto in televisione. Quindi sei d'accordo che l'elemento emotivo clou di tutti i social network, il cucciolo, è stato un elemento, è stata la risposta a una non desiderio, non capacità, non volontà di muoversi secondo gli strumenti della rete, prendo il cagnolino che rete funziona. Assolutamente sì, e questo è confermato anche dall'analisi degli argomenti più discussi di questa campagna elettorale, che non sono quelli di policy, per dirla con gli americani, cioè le proposte. Fa eccezione un po' il fisco, mentre gli argomenti più trascurati sono per esempio la scuola e l'agenda digitale, ma sono gli argomenti di politics, cioè della cosiddetta horse race, come direbbero gli americani. Cioè, tradotto italiano, di carattere peloso, come appunto esatto. Un cuccio. Esatto, proprio i candidati in quanto tali e la corsa a chi arriva prima. Grazie Andrea Cosenza, grazie Filippo Ceccarelli, ricordo Come un gufo tra le rovine, leggetelo perché è un libro che dà molto del passato e dà una lettura chiara di quello che sarà anche il futuro. Ciao Filippo, arrivederci. Grazie, arrivederci. Melog, la realtà condivisa.